sono Artivaz, Multimedia Channel. Radio Aelia Media, tutti i giorni dal 15 ottobre dalle 16 alle 20 in Piazza Pontoni. Eccoci qua, buonasera a tutti o buon pomeriggio, sono le 4 di pomeriggio nel caso qualcuno non avesse l'orologio e siamo qui con la radio alternativa di Aelia Media in Piazza Pontoni e live su aeliamedia.org e su Radio Kairos, che Danilo Masotti, che è qui con noi, non ha mai sentito dire. No, mai sentita. Ok. Kairos, che è una radio che trasmette dal TPO. Bellissima. Danilo Masotti. Lo introduciamo, che non si sa mai, malgrado tutti lo conoscono, blogger fitto, che una manganellata ce la meritiamo tutti. Esatto, sì. Possiamo sapere perché? Sì. No, perché ognuno di noi, dai, una manganellata se la merita, ognuno di noi sa perché. Io me ne merito varie, anche tu abbastanza, poi c'è chi ne merita meno, però una tutti quanti, dai. Una, così, una alla tutti vigliacca. Quanti. Non importa da chi, cioè generica. Un'altra cosa che ti volevo chiedere è alle 4 e un quarto devi andare a prendere i tuoi cinni. Beh sì, per forza. Ma di che cosa? Questa sera sarai alle Officine Minganti dalle 18, sì, a parlare di tecnologia. Sì, un argomento nuovo che tratterò, seduta di psicoterapia di gruppo sulla dipendenza dai social network, che adesso è veramente una piaga sociale, ecco. Ma c'è molta dipendenza dai social network secondo te? C'è molta dipendenza dalla tecnologia, c'è molta dipendenza da internet, dalla connessione. Di positivo c'hanno che hanno abolito la noia. Io mi ricordo periodi delle domeniche pomeriggio che non sapevo cosa fare. Invece adesso magari è delle domeniche pomeriggio che non sai cosa fare, ti attacchi a Facebook, poi guardi l'orologio, sono già le 8 di sera e non ti sei annoiato, però in compenso non hai neanche pensato a niente, ecco, quindi questa è la minaccia dei social network. La minaccia dei social network, ma a livello mediatico è più un po' segreto, una sorta di loggia massonica di Facebook che poi se n'è andata per conto suo senza il tuo benestare. Bene, è vero. Com'è questa cosa? Racconta. Perché io ho creato questa cosa qua, poi sono scappato e poi, siccome io ho molta fiducia negli individui, gli individui poi continuano loro di vita propria senza bisogno di un leader o di qualcuno che gli dica cosa devono fare, ecco. Non esistono leader, non devono esistere leader in rete. Ma ho visto sempre all'Officina Minganti, ho visto che c'è un corso per internet per Sdaure e Umarels. Ma questo ha a che fare con te anche quello? Oppure? Sì, cioè ha a che fare con me, che la facoltà di scienza della comunità. Parola. Ci mancherebbe solo questo, cioè niente. Umarels, tanto si sa chi l'ha coniato questo termine, quindi non mi voglio arricchire. Ma gli Umarels di Bologna ti vogliono bene o ti vorrebbero manganellare? No, mi vogliono bene. Ma mi vogliono bene perché sono gli ultimi, dopo ci sarà una noia totale, ci saranno solo dei vecchi ingastriti, della gente collegata a internet tutto il giorno che non concluderà niente, almeno gli Umarels qualche danno, qualcosa l'hanno fatto. Ho capito, ma ti volevo chiedere, ho saputo sempre per vie traverse naturalmente, di questa tua decisione di lavorare di più d'ora in poi a livello locale. Nuovo disoccupato, così a freddo non era male. Effettivamente è vero. Un laureato, quindi di fronte a noi stanno festeggiando un nuovo laureato che giustamente Danilo ha definito un nuovo disoccupato. Hai scritto anche un magnifico post sul Fatto Quotidiano sull'idea di non lavorare gratis. Sì, sul lavoro gratis. Ecco, poi non è da prendere così alla lettera come scritto, perché molti hanno detto sì, però tu allora che scrivi a gratis per il Fatto qui così... Allora ho detto sì, non lavorare gratis tutto il giorno, cioè io invece di andare a giocare a calcetto scrivo un post per il Fatto Quotidiano e basta, gli fa comodo a loro, mi fa comodo a me, basso, molto semplice, molto banale anche, dove dicevo vabbè, se vi propongo di lavorare gratis ditegli di no e basta, poi le altre ore le impiegate magari a cercare lavoro, oppure fatevi un'attività da soli a gratis, cioè che... visto che adesso appunto con internet è molto più facile che non prima, ma che è quello un po' quello che hai fatto tu, giusto? Tu hai avuto la magnifica fortuna di essere messo in cassa integrazione, di avere chiesto di essere messo in cassa integrazione e così No, ma questa è preistoria. Questa è preistoria, sì, perché parliamo di 20 anni fa. Sì, esatto, quindi parliamo di un altro mondo. No, io ho iniziato comunque a lavorare con il web nel 95, ecco. Quindi da lì che è ripartita la nostra collaborazione dopo aver bisticciato per varie vicissitudini. Sì, noi bisticciavamo sempre, poi adesso grazie alla rete siamo amici più siamo che amici mai per la pelle e occupiamo i mass media. Volevo farti anche una domanda seria, ma queste erano già serie. No, queste effettivamente erano abbastanza serie. No, ti volevo chiedere, siamo in pieno territorio fuorisede, sì, circondati da fuorisede, ma secondo te c'è un muro invisibile tra i bolognesi doc e di cui dopo parlerò con Andrea Obamarchi? C'è sempre stato e ho pazienza. E secondo te non è no, scavalcabile? Scavalcabile. In questo momento non ho una purtroppo non abbiamo. No, purtroppo ho portato solo Riccardo Lolli. Abbiamo qui con noi inoltre il nostro mago Tony Cioli Puviani. Salve. Sono spaventoso. Obamarchi passo dopo perché mi sembra abbastanza impegnato nel fare le riprese di questa magnifica trasmissione. Certo. Sei un po' raffreddato oggi. Sì, sì, qualche problema, ma si sta risolvendo. È 6 giorni, per cui mi dicono che dura una settimana. Domani sono a posto. Domani sei a posto, sì, ma questo bicchiere di catarro di cui parlavi l'altro giorno su bisogna dire a Radio Kairos e a eliamedia.org che il nostro mago è uno specialista della radio, lui trasmette. La radio è quella del morto per morto ed è una rubrica concettuale, da artista concettuale, ovvero... Infatti, perché tu effettivamente da poco sei entrato nella schiera degli artisti concettuali. Esattamente, così mi è stato detto dalle persone che devono decidere questo. Questa trasmissione è quella di suscitare delle emozioni forti, di cui conosciamo anche l'autore di questa frase qui, e al contrario... sei tu, certo, vorrei suscitare emozioni forti, e si pone un'alternativa nella quale vengono messe in discussione, ecco, se mettere la testa sotto un lavandino pieno d'acqua e rimanerci fino a che ti scoppia il cuore, o l'alternativa, l'alternativa è... Qual era pure? Era correre. È quello di andare ai giardini Margherita per i bolognesi o qualsiasi giardino, e cercare di fare dei giri intorno al parco fino a che uno si stanca, e continuare a correre fino a che uno non arriva alla morte. È chiaro che poi lo spirito di sopravvivenza, uno risponde, lo spirito di sopravvivenza fa sì che tu ti salvi in qualche modo, però questo è lo stile, è il progetto con cui mandiamo avanti la rubrica. Se però uno non riesce a scamparsi, cioè se tira fuori molto concettuale, cioè ti poni un'alternativa importante alla quale tu devi, due alternative, alla quale devi scegliere necessariamente, qualora tu non scelga, ecco che hai una punizione più forte delle due alternative di cui che ti sono state sottoposte. Classico dei classici, leggerissimo, è chiedere a un bambino piccolo: vorrei morisse prima tua madre o tuo padre? Glielo chiedi e lo solleciti, a quel punto lui istintivamente ti dice nessuno dei due, però gli fai capire che qualora non risponda lui è obbligato a rispondere, perché altrimenti, ad esempio, o muore lui o muoiono tutti e due i genitori. A quel punto lui risponde e viene fuori un po' di verità. Okay. Questa è la cosa più leggera. Sono quello che lascia tutto per terra, spero che qualcosa cresca, invece no. Lascio tutti i miei progetti per la strada, ma alla fine i conti non mi tornano. Sono quello che ricorda tutte le canzoni, ma cosa ho mangiato ieri no. E alle volte mi risveglio in camere di albergo, e dove sono proprio non lo so. Tu mi chiedi chiedi se son mica di Cesena e ti rispondo sì. E poi mi chiedi, mi sai mica dire dove è Corso Sozzi? No, che non lo sa, non lo sa. E parlare mai di borsa. Poi mi chiedi, sei curioso, vuoi aver la mia opinione? Sì. Io mi fugo nelle tasche, ma non trovo un'opinione. E qui, che non ce l'ha, non ce l'ha. E Corso Sozzi non lo so. C'è chi ha la risposta pronta per ogni domanda, ma le domande non le fa. E c'è chi è sempre pronto, sì. Ma poi mi chiedi, mi sai mica dire dove Corso Sozzi? E Corso Sozzi non lo so. Io non lo so, non lo so. E Corso Sozzi non lo so. Io non lo so, non lo so. E Corso Sozzi non lo so. Io non lo so, non lo so. E Corso Sozzi, Corso Sozzi. Puntoni dal vivo, ecco. Con una bella giornata di sole, qualche sì. Umarel che ci guarda, Danilo Masotti ci saluta, è andato all'asilo. È andato all'asilo a prendere i suoi cinni scurzoni, anzi scurzoni, visto che volevo anche fare un corso di dizione. Secondo te Daniele Airoldi potrebbe essere... Daniele Airoldi che inizierà il corso la prossima settimana, c'è ancora qualche posto. C'è ancora nel suo profilo posto. Di Facebook, Daniela Airoldi, e qualche posto sembra disponibile. Ancora disponibile. Okay, sicuramente. Ma secondo te io ne ho bisogno, va bene se io dico piaffa? No, no, hai un pochettino la S bolognese, l'agnolina, però si può correggere. Daniela senz'altro avrà il modo di farlo, anche perché lei ha una pronuncia... Ma lo vuoi ripetere anche per Radio Kairos, sì, e Ilia Media? Diciamo che questo gioco del morto per morto si può porre appuro nella scelta di due alternative molto molto pesanti, e per cui uno scherzosamente, ovvio, può iniziare con la scelta chiedendo a un bambino del papà o della mamma o tra due amici. È molto molto messo, se volete mettere in imbarazzo, se siete tre amici chiedete a uno dei tre quale che potrebbe morire prima tra i due residuali degli amici. Insomma, quando ci sono queste scelte, fino ad arrivare anche a cose immaginarie, però possibili. Per cui l'ultima rubrica è stata quella del catarro, ovvero si è fatto riferimento a un bicchiere pieno di catarro non identificato, con scatarrato da una persona non identificata, però abbastanza schifoso da vederlo. E l'alternativa era quello: ti berresti questo bicchiere per un milione, dico un milione, un milione di euro, cioè come bello quello del signor Bonaventura, tipo. Ecco, un milione di euro. Quello che è stato divertente, perché poi questa domanda non l'ho inventata io, è stata posta da una gentile signora romana che vive a Roma almeno, in un social network. Wow. In questo social network è stata posta. È bello che dopo 2-3 ore su questo, le risposte che venivano date, e sono state parecchie, su 170 persone che potenzialmente potevano rispondere, nessuno che avesse... gli fosse balenato almeno l'idea di poter accettare, che oh ma che schifo, mai, non lo farei mai, ma vorrei vedere i contanti, poi magari ci penso. E questo è in contrasto, secondo me, con quello che è la crisi oggi, con quello che sono i tempi adesso. E allora la problematica era quella, ma l'ipocrisia delle persone fino a dove si ferma di fronte a un social network, se ci fai caso, perché ci deve essere questa ipocrisia? Che è evidente che di fronte a, noi vediamo casi e casi che di fronte a un danno di 5, 10, 20 euro la gente magari fa ben di più di berci, cioè come sforzo fa delle cose pazzesche, per cui c'è questo scontro tra l'ipocrisia di negare un qualche cosa che farebbe per farsi vedere bello, specialmente nei social network. Ah, ecco, certo, per cui certo. questo spunto non è piaciuto molto, l'esempio del catarro, però è evidente che uno non può dire vuoi 1 milione di euro, in alternativa ti bevi una Coca-Cola magari calda, devi farlo ad effetto. Per cui c'è stato questo spunto. A proposito del sentirsi belli sui social network, per esempio Andrea Obamacchi, esatto, si sente più bello su un social network oppure più bello dal vivo? Tu ti fai bello nel social network? Più bello dal vivo. Tu sei più bello dal vivo? No. Beh, effettivamente cioè, hai una pelle molto liscia e questo lo devo sottolineare in radio. Lizio, anch'io devo fare il corso da Lairoli. Lizio. No, dunque, quali sono, tu che sei un esperto di social network e di social network, quali sono le armi reali che ogni essere umano con una webcam e un computer ha per potenzializzare, ci vuole aerobico, la sua autostima e la sua popolarità? Troppo difficile, forse. Difficile, ma più che autostima è la voglia di riportare eventi che altri non riportano. Io ho cominciato così. Prima ho cominciato a riportare eventi politici. Scusate, ricordiamo che il tuo blog è Bologna Inside, diciamo, il canale YouTube. Ti faccio una bella lista di tutto quello che è un social network, come si dice a Bologna. Esatto. Fatti un po' di autopubblicità e raccontaci tutti i siti internet in cui ti possiamo trovare. Diciamo che Bologna Inside è un marchio mai conosciuto a Bologna, che di riflesso ha creato un social network con 500 iscritti, che postano foto, video, eventi su Bologna. Di cui nessuno è disponibile a bersi un bicchiere di catarro, giusto? No, direi di no. Okay. Ci sono anche dei bolognesi newyorkesi iscritti, comunque ogni tanto si mandano dei video in inglese. E di riflesso ci sono tutti i social network collegati a Bologna, che è il vero social network, il primo e unico a bolognese. Come dico io. Bulagna. Dunque, dove c'è riportato da 2-3 anni tutto quello che accade su Bologna, dagli eventi di Masotti, da Marco che col megafono è in centro quasi tutti i giorni, alle varie manifestazioni, ai vari umarelli che girano per il centro, discutono, manifestano e fanno quant'altro, e così via. Comunque Bologna Inside è un grande contenitore e un social network esclusivi su Bologna. Ma è per quello che riguarda i fuori sede, come si comporta Bologna social network? È un po' snob, dal mio punto di vista. Per non rimanere chiuso in questo social network o Bologna Inside, ho creato dei gruppi su Facebook, quando ti permette di fare gruppi abbastanza importanti. Di conseguenza, diciamo, per i fuori sede Bologna precaria è una vera rivelazione, nel senso che io qua creai con quelli dei precari Bologna precaria il gruppo, dicendo siamo tutti precari, siamo perché tutti precari. Siamo in un mondo oggi che chiunque è precario, anche quello che ha il contratto indeterminato, perché se l'azienda decide di chiudere tu puoi avere un bellissimo contratto ma l'azienda chiude, dunque siamo tutti precari. Ma secondo te una manganellata se la merita, chi se la merita? Ce la meritiamo tutti oppure ce la... Direi tutti, c'è chi si merita più manganellate. Chi si merita più manganellate? Chi meno, diciamo chi... A proposito di manganellate, tu ho letto su YouTube, perché notoriamente YouTube è un portale da leggere, nel tuo sito, nel tuo Bologna Inside, chi si occupa di politica viene segato. Perché diciamo, questa cosa? Non è che viene segato, ma non deve politicizzare un social network alla bolognese, dove in fin dei conti si parla di Bologna, ci sono eventi, ci sono foto. Comunque la politica in questo caso non è molto centrata in questo discorso. Poi è ovvio che tra gli iscritti ci sono dei politici che ricevono le mail, e considerate che l'80-90% sono passivi. I politici passivi cosa significa? Hanno qualche problema? No, in generale sono passivi tutti in rete, dunque sono un branco di guardoni, cioè noi ci ritroviamo a postare tutti i giorni i più attivi, ma in realtà noi ci rendiamo conto di quanta visibilità abbiamo, perché molto è più comodo per molti guardare e non scrivere niente che interagire con altri, alcuni per pigrizia, alcuni per paura di manifestarsi, eccetera. Dunque io mi sono divertito in questi anni, dopo aver conosciuto Masotti, che diciamo ha aperto un po' questa mia voglia di creare gruppi su Bologna e giocare con la bolognesità, tipo i gruppi tutti bolognesi su Fazza Libera, che era stato creato 3 anni fa, quando i gruppi andavano molto in voga, i gruppi bolognesi. E lì era stato concentrato tutto il gotha bolognese giocando sul fatto del doc. Il doc era un bolognese doc. Che cazzo è un bolognese doc? Alcuni scrivevano, dicevo sì, io sono il padre bolognese. Il padre di Sala bolognese, no, la mamma di, esatto, di Castel San Pietro, diciamo, sono bolognese o non sono bolognese? Era stato stilato un vademecum. Ah, cioè, hai fatto un vademecum, sì, interessantissimo. Dopo poi cominciavano a lamentarsi, ma io sono bolognese. E cominciava a diventare poi complicata verso i 3.000 membri. Allora, possiamo fare una prova? Allora, io ho la mamma di Bologna e il padre di Sala bolognese. Sono un bolognese doc? Viva Bologna! Ecco, già hai avuto una mezza risposta. Viva Bologna! Diciamo che sei, sì, doc sei... Sono sei doc. Doc sono doc. Ma se avevo la mamma di Napoli e il papà no, di Sala Bologna. Se hai abitato a Bologna più di 10 anni sei doc. E se ho abitato fuori da Bologna per più di 10 anni? Dunque a Bologna da poco fai fatica. Sono a un novello. No, Bologna sei, number sei one. Sul doc. Sei sul doc. No, aspetta che a questo punto abbiamo questo magnifico ospite. Ti volevo dare un attimo il microfono. Dai, sì. Fai un uno. Sei bolognese, doc? Arriva solo fin lì, vai. E dove sporto vengono bandito la giorno? E i carabinieri della polizia non raffanista spavenga di New York 5579 Saturday Rome. Meraviglioso. Sì. Sì. Sì. Posso? Grazie. No. Grazie mille a tutti. Chiediamo se è un bolognese doc o se di passaggio. Buona fortuna a tutti, a tutta Italia. Buona fortuna. Grazie. Ne abbiamo bisogno, grazie a te. Ciao. Beh, buone amici, ma un bicchiere. Non ce l'abbiamo il vino. Lui c'è un problema di vino che non abbiamo. A questo punto, se mi permettete, volevo farvi sentire una canzone, sì, di una non bolognese, non doc, che adesso sta a Berlino, per cui proprio. Dunque non c'è Marti fa male. Dopo Enrico Farnedi, che sentirete domani sera a Elastico. Volevo anche ricordarvi che qui in Piazza Puntoni, oltre a questa magnifica struttura costruita dalla pillola per aigliamedia.org, abbiamo un mercatino di vestiti vintage meraviglioso, che è qui tutti i martedì. E la signora che lo gestisce è una bolognese top. No, No, non è bolognese doc per niente. Abruzzese doc. Abruzzese doc. Abruzzese però doc. E dove eravamo rimasti? Mago Tony, dimmi un po', ma con questo tempo qua hai già messo le gomme termiche? No, io ho la caratteristica di non mettere mai le gomme termiche, anche perché guido poco e vado poco. E poi eventualmente dovesse nevicare, io rimango a casa. Ecco, questa. Non c'è nessun problema. Non c'è nessun problema. Adesso abbiamo sto spazio. Canzone. No, la canzone è dopo, quando c'è Vincenzo, dopo la canzone. Dunque, rimani a casa. Sì. Più canzone bello. Torniamo un attimo all'evento di stasera. Tu mi devi raccontare ancora. Presenterà Mazzotti all'officina Menganti. Non ti distrarre con quella telecamera. No, così mi prendo dietro l'Umarella, che c'è sempre l'Umarella tra di noi. E niente, Danilo Mazzotti svelerà la tecnologia da Sinno fino a oggi. Ma secondo te i cini di oggi con la tecnologia come se la cavano? Direi molto bene, hanno già, vedono i genitori con computer davanti, smartphone, dunque loro sanno già fare. Il problema sarà gestirli quando saranno più grandi, perché purtroppo in rete c'è di tutto. Io ad esempio i miei dati in rete non sono veri per una scelta di uso. Di uso legale, tutte le cartate che scrivi. No, di uso legale dei dati miei per altri usi che possono essere criminali. Quindi se voi parlate con degli esperti di privacy, sono i primi a dirvi non mettete i veri dati in rete. Non mettiamo i vostri dati potranno essere usati un giorno contro di voi. Perché siete, i miei dati sono fasulli, anche se mi presento in giro, anche se ho, diciamo, intervento con politici presentandomi. Ho gestito anche un anno e mezzo una pagina fan della Cancellieri a sua insaputa. E sei stato querelato, no, però come Andrea Obama. Mi sono presentato dicendo che ho quasi fatto la pagina fan e sono stato accolto in comune per interagire con chi, diciamo, avevo creato fan. Che poi era diventata mi piace, perché c'è stata un'evoluzione dal mi piace a, no, da fan a mi piace. Mi piace. Ma dopo vi siete baciati? No, no. Mi ha regalato un tortellino a forma di cioccolata. Un tortellino, esatto. A forma di cioccolata, cioè non, esatto. Una cioccolata a forma di tortellino. Esatto. Ah, una cioccolata a forma di tortellino. Esatto. Ed è stata un'esperienza bella, perché con il media sono riuscito ad arrivare alla prima poltrona del comune di Bologna senza muovermi dall'ufficio. Ma le tue ambizioni sono di arrivare a quella poltrona per poi, no, finalmente assolutamente dare. No, le mie ambizioni sono quelle di, penso, di interagire con i politici bolognesi e segnalare con i miei video, visto che io mi considero report, quello che succede in città, nel bene e nel male. Dunque, non è che si possono far vedere le cose solo belle, bisogna far vedere tutto. Dunque anche i lati negativi delle cose, per poi essere critici e migliorare. Dunque i miei video servono per sensibilizzare, tipo i video provocatori che ho voluto fare, mm-hmm, sono stati quelli dell'Apple Store. Sì. L'Apple Store, perché c'era questa smania americana di far vedere un nuovo negozio creando molto... aspettative. Molta carica e aspettative, mm-hmm, anche all'interno degli stessi dipendenti. Ok. Dunque non so se voi avete assistito, comunque il video. Ma per che dipendenti ho fatto... intendi quelli che dipendono dalla Apple, perché se non hanno un Apple stanno male. Quelli che sono stati assunti per questo periodo. Quel tipo di dipendenti. Che voi non c'eravate, ma sono stati molto caricati sia all'interno che all'esterno a interagire con il pubblico. Dunque c'è stata una, la chiamo io un'americanata, perché gli americani sono così. Sono tipo gli yes men che vediamo in alcuni film, ma in altre tu cose. Lo sai che dalla Johns Hopkins ci sentono direttamente. Non ho problemi a interagire con gli americani. Stasera c'è Amanda Knox che sì, è ospite del Oggi vi posso dire che verso quest'ora c'era il principe Filiberto a Bologna. Oggi? Oggi c'era il principe Filiberto, Principino, sì, e tu che... sei venuto qua anziché, esatto, infatti sono un po' dispiaciuto, però ho detto no, occhio al principe che potrebbe intasare la città, le strade, bloccare tutta la città, perché è là, guarda, il principe sta passando, sì, in questo la manina, e magari non riusciamo a vederlo, però. Lo salutiamo, non, sì, lo vedevo da un sacco di anni. Era il tuo master? Era il mio master, era il mio professore, esatto, di storia dell'arte. Perché ahimè io sono diplomato all'Accademia di Belle Arti. E invece tu, Tony, dove sei laureato? Allora, io ho fatto, lo dico seriamente, e con, no, qui anche io, a 140 metri da qui, anzi forse 100, c'è la facoltà di Economia e Commercio, dove la bellezza di oltre 86, 24, 25 anni fa, oltre 25 anni fa mi sono laureato, 26 anni fa, per cui... Ok, scusa, che abbiamo un microfono solo. Come blogger unico ed esclusivo me, nato da Masotti, più un altro signore che scrive solo delle cose molto molto particolari, e in questo blog scrivo solo io circa... due volte all'anno, cioè nel senso che negli ultimi 18 mesi ho scritto tre volte. È un blog che mi ha lanciato questa base, che si chiama www.finanzainutile.it, proprio per dare senso al nome che porta. Cerchiamo di renderlo più inutile possibile, in quanto appunto non c'è mai niente di scritto, e quando viene scritto qualche cosa viene spesso letto. È ancora direttore? Dunque. Tuttora direttore, per cui almeno 20 anni che è direttore. Ha fatto un intervallo, grazie comunque. Abbiamo appunto pensate un po' che gaffe che l'ho chiamato ex. Infatti ho visto che hai gli occhi un po' lucidi. Ho gli occhi un po' lucidi, commosso. Sì, mi sono commosso. Era quasi una carambata. Mi è piaciuto molto e ho pianto tanto, come avrebbe detto Fellini in Amarcord. E a questo punto musica, anzi musica allegrissima direttamente dal Polesine. Una canzone che si intitola, non la trovo più. Una canzone che si intitola... L'elica ha dilaniato il ventre del delfino. Nessuno si aspetta di essere colpito alla schiena. I cannoni sono a corto di munizioni. Bisogna affrettarsi a virare, persino in battaglia puoi non incontrare il nemico. Una gamba che duole non è dolore. Voi non siete attesi qui. Lunga vita a quelli che cantano nel sogno. Il mondo intero può giacere sul fondo. Tutti i continenti possono bruciare nel fuoco. Ma tutto questo non è di mio gusto. C'è una falla nel sommergibile. E, Andrea Obamarchi, nel frattempo mi hai raccontato che ti hanno segato un gruppo, sì, da un Facebook. Gruppo. E che si chiamava Bologna Baratto. Bologna Baratto? Sì, ed perché era... vista la crisi imminente, parliamo di un anno fa, e visto che avevamo previsto che deve ancora arrivare, e lo dicevamo un anno fa e lo continuiamo a dire, e abbiamo pensato al baratto, cioè siamo e gli annunci anni 70 che dicevo, esatto, scambio motorino, esatto, 50 con una casa di, ero diventato il colli, gruppo dei bei alla bolognese, diciamo. Oppure scambio la mia collezione di Topolino del 74 con Kawasaki 500, esatto, da enduro, okay. Però nella realtà mi offrivano dei soldi, cioè la parola baratto non era stata molto capita, mi dicevano ti do per un cellulare usato vecchio 60 euro, che non erano pochi, ah, avevo, certo, fatto anche un pensierino, ecco, però dicevo, okay, scusa, si chiama Bologna baratto, quasi dammi baratto, qualcosa in e cambio, e come mai te l'hanno segato? Non lo so, perché non c'è più, anche su Google se fai la ricerca non è, perché probabilmente non... aveva, c'è stata, aveva una segnalazione di fiscale, cioè parlava di soldi, quindi per cui cioè era pubblicità, era probabilmente. A livello locale, allora, abbiamo tutti gli assessori e il sindaco in rete, direi quasi 24 ore al giorno. Il sindaco addirittura è posta mentre fa dei discorsi. Dunque io e Masotti ci chiediamo sempre chi è che posta al posto del sindaco. Ma questo, vabbè, ci sarà qualcuno. Io più o meno l'ho individuato, che fa le foto e carica mentre il sindaco parla. Dunque dico, non è il sindaco che carica le cose. Gli assessori sono molto attivi, hanno creato anche un'applicazione sull'iPhone Bologna, l'ho scoperta una settimana fa, ma in realtà l'avevo già scaricata, fatta molto bene, ovviamente ci sono stati molti soldi investiti, dunque un'applicazione. Questo motivo, adesso il sindaco è all'estero, si è guardato la sua bacheca e dice sono qua, sto facendo questo. Dunque, noi sappiamo un cappuccino tutto. 3 euro, esatto, e mezzo, siamo un po' a dei livelli un po' esagerati, però okay, è giusto sapere quello che fanno, perché loro ci rappresentano e comunque hanno un rimborso per quello che fanno. Dunque, secondo te, anche in Italia ci stiamo anglosassonizzando, esatto, grazie a in Internet. Italia, a parte il governo che cerca di bloccare qualsiasi, diciamo, libertà di espressione, diciamo, è ovvio che deve essere bloccato chi ha un'espressione un po' troppo vivace o offensiva, questo sono d'accordo, ma non sono d'accordo nel cancellare Wikipedia, nel cancellare siti, perché parlano liberamente di magari di un discorso che dà fastidio. Ecco, io sono di quest'idea, ma ci sono dei sistemi in rete che tu puoi fomentare una massa con dei profili sconosciuti. È ovvio che il rischio ce l'hai sempre di, certo, essere segato, però puoi creare qualcosa di potente. Certo, certo. Come poi fanno quelli che hanno poi fomentato le guerre oltre Europa, e che sono partite dalla rete. Dunque, e gli indignados stanno partendo e sono partite da Barcellona, adesso sono a New York fuori da i giorni che vengono arrestati, sì, sì, sì. A Bologna hanno fatto una settimana fa una manifestazione, adesso a Roma hanno distrutto mezza città, ma è ovvio che quando c'è una manifestazione grande dentro si inseriscono un po' tutti i cattivi, diciamo, perché più la manifestazione è grande e più la possibilità di persone che non hanno voglia di stare a discutere ma hanno voglia di rompere tutto si sfoghino, come abbiamo visto, proprio si facevano riprendere che disfavano una banca e finché non staccavano quel benedetto vetro non si staccavano da lì. L'avete visto, penso, tutti. Io sono rimasto, no, lì. Io non ho, c'erano visto i cameraman niente fuori, tranquilli lì appoggiati. Era come se fosse un reality, però nella realtà. Erano appostati lì, ma beh, un po' come a me ha fatto un po' impressione quando l'Italia ha vinto il campionato del mondo, che non hanno fatto tempo a suonare il fischio finale, che i ragazzi erano già in posa per la prima foto a modi di crociati, diciamo, romani. Siamo... Strana, questa cosa qua mi ha fatto un po' impressione. Siamo tutti protagonisti. Siamo allora tutti c'è un po' forse anche, ecco, c'è questa mania di protagonista anche per, diciamo, quello che vuole distruggere, nel farsi vedere che sta distruggendo. Come se fosse, se stesse distruggendo un sistema bancario, ma in realtà che cosa ha fatto? Ha rotto una banca, ha fatto dei danni a un palazzo, incendiamo le macchine attaccate ai palazzi, vabbè, non so se l'avete visto. Il gesto è naturalmente simbolico, come è quando simbolico, ovviamente. Fuoca la camionetta dei carabinieri. Però, questa smania di rompere questo vetro che io ho visto e non avevo mai visto prima, tiravano delle gran sassate e poi andavano avanti. Questa smania di staccare sto benedetto vetro che non veniva via, perché sono quei vetri infrangibili, cioè, è stata una cosa che mi ha colpito. Sei proprio, cioè anche questa voglia di buttare dentro l'Andy Warhol di Bologna. Scusa se ti interrompo, perché anche Andy Warhol si impuntava su queste, su queste, su questi particolari, no? Cioè, ti è andato via il microfono, non so bene perché. Sì, ho notato questo, ecco, mi ha colpito. E poi facciamo vedere le riprese, c'erano appostati 10 TV, penso, nazionali e internazionali, che riprendevano la scena come se fosse una cosa normale, ma 10-15 minuti in diretta, certo, questa scena, e continuavano tranquilli e si vedevano anche le facce. No, chiaro. Dunque, chiaro. Questa ma era un momento televisivo, naturalmente. Sì, molto. Era un reality, però esatto, un vero. Reality, un voglia reality di protagonismo, vero. E poi con dei risultati che non... Ma siamo tutti un po' malati di protagonismo, infatti vi ricordo che siamo su aeliamedia.org e sulle frequenze in diretta su Radio Kairos 105.5. Danilo Masotti non conosceva Radio Kairos, tu la conoscevi Radio Kairos, Mago? Beh, caspita, è una delle quattro radio che sono nel, quando entro in automobile, nei tasti. È il quarto tasto, perché è la prima Radio 1, poi c'ho Radio 2... Poi Radio sono, DJ Sole 24, no, Kairos punto radio, ma così residualmente, per cui è in dubbio 106.5, per cui almeno io questo qui 106 mi sembra un 5, 105.5. Ti volevo dire, ma il tuo amico Bob di Vacca Putanga, sì. Ma com'è questa vostra collaborazione al Lago del Mago? Com'è, Lago del Mago. Com'è nata questa collaborazione con gente, con comici di cotanta levatura? Ma proprio stamattina ero qui al Capitol a vedere l'anteprima del film che poi uscirà. L'anteprima dell'anteprima, non si può neanche dire il titolo? L'anteprima, no, caspita. Ah, no, allora parla. Bar Sport. Un film l'ho sentito dire, mi ricordo che una volta ci andavo. Tratto da un libro del 77, mi sembra, di Stefano Berri. Benny. No, ma c'ho la N. Benny. C'hai la N della del naso, Arroldi. Un pochettino così. C'è la N da Airoldi. Esatto. Uscirà questo venerdì, dove Bob Messini è uno dei quattro protagonisti insieme a Bisio, Catania e Battiston. Ma c'è anche quello, come si chiama, quello che faceva Teo Teocoli anche, sì, addirittura. Sì, poi c'è la Lunetta Savino, li aspettiamo tutti domenica 23 a Piazza Puntoni come ospiti, naturalmente. sicuramente ma guarda, è nata per caso, è nata in maniera strana, perché durante la crisi del 2008 io che poi di professione fai l'economista, diciamo, giusto? L'economista è una parola importante, diciamo che mi occupo dei mercati finanziari per conto mio, cioè nel senso che faccio lo scalper o il trader, per cui compro e vendo, ma devo essere, ecco, bellissimo, qui ci siamo, abbiamo già l'indignados, niente. E mi chiamava alcune trasmissioni per dare e spiegare determinati fatti economici. Da lì poi è nata una collaborazione sempre più fitta. E fino adesso arrivare... fai il pagliaccio. Ma il pagliaccio, insomma, l'artista concettuale, dove di fatto poi è molto più difficile fare questo che quello di prima, anche perché ti devi inventare e reinventare ogni volta, perché queste cose qui stufano, per cui siamo passati dallo spaventoso, roba del showroom. 2010, showroom, oro colato, al morto per morto, al Lago del Mago, e in gola, ricordiamo anche in gola che... per non dimenticare appunto questa magnifica pubblicità delle gomme termiche. Vabbè, che rimarrà per sempre nel mio cuore, cioè secondo me tu sei l'uomo delle gomme termiche, esatto. Fra un po' mi dicevi però sì, non so se verrà ancora con la mia voce, eccetera, per cui è nata questa collaborazione data da alcune esternazioni che facevo durante delle rubriche molto serie, nella quale poi mi calavo di una parte via fino ad arrivare a pseudo pagliaccio. Ecco, prima di visto che stiamo per finire la nostra trasmissione, prima di salutarvi volevo farvi sentire una canzone che si chiama Vaffanculo. L'ho bellissimo. Trovata su internet ieri e secondo me piace abbastanza. Beh, quella di Basini anche a Danilo Masotti. Neto, no, è di Eli Sexy e Neto. Llegué a una discoteca y yo pensaba que era duro. Oh, es verdad, es sí. verdad, es verdad. Yo llego a la disco y yo pensé que yo era duro. Y la gente me gritaban, va fan culo. Yo llego para la disco y yo pensé que yo era duro. La gente me gritaban, va fan culo. Si ahora yo te cuento la gente que ahí estaban. Y todos me miraban y yo lloraba. La gente me miraba y yo lloraba. La gente me miraba y yo lloraba. Y yo no me lo creía, la tipa me miraba, Carlos la mangaba y yo lloraba. Yo llego a la disco y yo pensé que yo era duro y la gente me gritaba, va fanculo. Yo llego para la disco y yo pensé que yo era duro, la gente me gritaba, va fanculo. Ay Dios, va fanculo, ay ay, va fanculo, ay ay, va fanculo, ay ay, va fanculo. Los peruanos, va fanculo. Los dominicanos, va fanculo. Todos esos palomos, va fanculo. También los marroquinos, va fanculo. Yo llego para la disco y yo pensé que yo era duro. La gente me decía, va fanculo. Yo llegué para la disco y yo pensé que yo era duro. La gente me decía, va fanculo. Ay Dios, y yo llego a la discoteca y las mujeres me miran con caña de peca. ¿Qué es lo que pasa? Que yo no canto feca y ellas a mí me cogen como cualquier neto creca. Ay Dios, ay, ay Dios, ay, va Dios, va fanculo. Ay Dios, va fanculo, ay, ay, va fanculo. Yo llego para la disco y yo pensé que yo era duro y la gente me decía, va fanculo. Yo llegué para la disco y yo pensé que yo era duro, la gente me decía, va fanculo. Fryson, va fanculo. BK, va fanculo. Whisperman, va fanculo. Todo el mundo, va fanculo. Manuelito, va fanculo. El Chepi, va fanculo. El BK, va fanculo. Scra, va fanculo. La princesa, va fanculo. La siete, va fanculo. Nosotros bajamos con la pista con los croquers. Bajamos aquí al estudio amotinado, haciendo este tollo para el pista pegado. Ay, ay, va pa' culo. Ay, ay, va pa' culo. Qué cura. Va pa' culo. Qué vaina. Va pa' culo. Yo llego para la disco y yo pensé que yo era duro. Y la gente me decía, va pa' culo. Yo llego para la disco y yo pensé que yo era duro. La gente me decía, va pa' culo. Monti Culebra. Yo era duro y la gente me decía, va fanculo. Yo llego para la disco y yo pensé que yo era duro. La gente me decía, va fanculo. Ay, ay, va fanculo. Ay, ay, ay, Dios. Ay, ay, va fanculo. Ay, ay, va fanculo. ¡Qué cura! Va fanculo. ¿Qué es lo que tú dices, Whisperman? Con ellos se pega, yo me mato, loco. No te haga. Oye, me lo mocho. Monti Culebra Production. Haciendo lo que era porque no hallaba no qué hacer. Ya tú sabes, me quité. Tumba eso. Esto es para pegarnos a la mala. No vamos a pegar como un coquillo. Oye, es a terror, es Neto y el C. Si no te haga. No te haga. Guaremate. Elia Media, dal 15 di ottobre dalle 16 alle 20 in piazza Puntoni. Elia Media, dal 15 di ottobre dalle 16 alle 20 in piazza Puntoni. www.aeliamedia.org. Bene, così ringraziamo i nostri ospiti, Danilo Masotti che è scappato dai suoi cinni e Andrea Obamarchi che invece sta andando all'Officine Minganti per presentare Danilo Masotti e il nostro magnifico mago Tony che invece sta... spaventoso. Che è spaventoso e non so cosa stia facendo. Lavoro, io lavoro. Sta facendo, tipo sto leggendo FDAX DIC 11.5904.5. Che vuol dire Future DAX, scadenza dicembre 2011, quotazione 5.904.5 per i più veloci. E invece sul 105.5 trovate Radio Kairos, giusto? 105.5. E oltre che a Elia. No, questo invece non funziona. Mi hanno dato un... Proviamo, no. Direi che non funziona. A eliamedia.org, nel caso ci state ascoltando da casa, se non ci sentite bene, significa che abbiamo problemi di streaming. Io vi saluto, sono Stefano V. Pasquini e vi lascio con un pezzo che non c'entra un cazzo di Guido Foddis, che però siccome è simpatico, non è bolognese, non è alternativo, non è un media channel, ma gli vogliamo molto bene e prima o poi dovrebbe anche partire. Forse. No. Sono svegliato stamattina con un grande mal di testa, 10 euro in tasca e tutto quello che mi resta. Lancio un grido dentro al frigo solo per sentire l'eco, economico, ecologico e cos'è così. Io sono in bolletta, per fortuna che mi rimane la bicicletta. Io sono in bolletta, gesso in bolletta, ma oui, mica facile così. Pagherò, prima o poi, pagherò, io ti giuro pagherò. Dammi solo un po' di tempo, solo un po'. Pagherò, prima o poi, pagherò, prima che arrivi il momento del pignoramento. Pagherò, la mia vita non pagherò, fino a che non pagherò. Vivo così, inseguito da uno sciame di cambiali. Vivo così, braccato anche dal padrone di casa. La pigione pagherei ogni mensilità con puntualità. Peccato che sono in bolletta, per fortuna che mi rimane la bicicletta. Io sono in bolletta, scesso in bolletta, ma oui, mica facile così. Pagherò, prima o poi, pagherò, io ti giuro pagherò. Dammi solo un po' di tempo, solo un po'. Pagherò, prima o poi, pagherò, prima che arrivi il momento del pignoramento. Pagherò, prima o poi, pagherò, io ti giuro pagherò. Dammi solo un po' di tempo, solo un po'. Pagherò, prima o poi, pagherò, prima che arrivi il momento. La mia vita pagherò, fino a che non pagherò. La mia vita pagherò, fino a che non pagherò. Oh, la mia vita pagherò, fino a che non pagherò. La mia vita pagherò.